Wall Street, I viaggi del lupo. E anche oggi, il 12 gennaio 2018, torniamo in onda con Wolf Trips. La prima puntata dell'anno. Già, infatti. È da un po' che non ci sentiamo, Forse era inizio dicembre. Ah, veramente? Sì. Mi sembrava due secondi fa. Questo è Wolf Trips ed è un programma di esplorazione musicale che prima si faceva... Lascia fare. E prima era di un'ora, adesso finalmente c'è andata addirittura due. Pensa un po' che esplorazione che possiamo fare. E oggi io sono Domenico Biancardi, dall'altra parte abbiamo Cristina. Poi abbiamo anche una new entry che andiamo a scoprire poi dopo pian pianino nel programma. È qua. A fianco come presente, tipo i... come si chiama? I pappagalli. I gufi. E in più abbiamo anche Erika, invece, che iniziamo già a salutare, che è venuta a trovarci. Era già venuta altre volte all'interno del programma. La conosciamo, è una nostra vecchia amica. Ammazza, proprio gli hai dato... l'hai ammazzata, proprio l'hai stroncata subito. È una vecchia amica, perché mi sei... vabbè. Poverina. È dell'anno scorso, giusto? Ah, quindi non è proprio vecchia, da un anno. Dall'anno scorso. Vabbè, a parte le stupidate a parte, dobbiamo salutare Fabio, che secondo me stasera... ci pacca. Sì, già ieri l'avevo visto che non era proprio sano, quindi, sì. Vabbè, lasciamolo, è meglio che non venga, perché sennò poi ci diffonde il morbo. No, Fabio, ciao, ti salutiamo. Ciao. Ma stiamo meglio così. Tu pensa, prima che finissimo l'anno non c'era perché mangiava. Adesso vero, non c'è perché sta è malato, male. Io non lo so. Adesso lo licenzio. Vero. Stasera andiamo ad ascoltare un po' di musica, come al solito, del underground, vari generi, vari stili. E poi abbiamo una nuova rubrica, però pian pianino andiamo a svelare. E poi, visto che sto facendo una sorta di classifica sulla pagina ufficiale di Wolf Trips, di musica proprio su Facebook, quindi seguiteci anche sulla nostra pagina Wolf Trips di Facebook. Sì, dicevo, è una classifica proprio di musica sconosciuta. Andremo ad ascoltare qualche brano della classifica. Partiamo subito con Diplo con Get It Right. Walking down that road, where did all the flowers go? They say we're supposed to grow, learning from the highs and lows. All eyes lying on me, oh, begging me to play the role. 'Cause I'm gonna get it right, I'm gonna get it right. They can try to hold me down, but Stasera partiamo subito belli carichi. Perché ridi? No, nulla, perché stavamo discutendo un attimo qua dei programmi da fare. Vabbè, iniziamo a parlare del nostro programma di stasera. Poi sì, dopo... no, non c'entra niente con il programma della radio. Eravamo allora, qui a cazzeggiare nel frattempo. Quindi... Allora, intanto introduciamo subito Tony, che lo salutiamo. Ciao ragazzi, ciao. Come va, Tony? C'è il microfono un po' più alto per me. No, siamo alti uguali io e Domenico, però niente. No, adesso okay, non l'ho capita questa battuta, sappilo. Non è all'altezza, ecco. Vabbè, ci terrà un po' di compagnia. E tra l'altro, poi dopo, vabbè, con calma. Stasera... Con calma svegliamo tutto, se no svegliamo tutto all'inizio. Infatti, e basta, cioè, ascolta. Tanto non ho notizie comunque da Fabio, secondo me è proprio cotto. Sì. O magari o lo vediamo spuntare qua a momenti o è proprio... O è collassato sul divano. Però vabbè, dai, mi informo. Con la guardia medica. Sì, infatti. Ma volevamo... Prima stavamo parlando un po' della... Prima di iniziare Gira la trasmissione. La no, stavamo parlando un po' dell'argomento della serata. Dici un po', visto dici che... Dici un po'? Sì, tu lo sapevi. Dici un po'? Sì, tu me l'hai... Io volevo sapere come erano andate le vacanze di Natale, cosa abbiamo fatto. Più prima... Che altro... Più che altro non è tanto le vacanze di Natale, è il post Natale, secondo me, il discorso da fare, perché è più interessante quello, forse, del... No, beh, durante le vacanze di Natale, diciamo che abbiamo un po' annaspato con i gomiti per terra, perché non riuscivamo più a stare in piedi. Vabbè, quello un po' tutti, dai, è normale, è normale. Mizzica. No, io invece lancio subito, intanto che tu raccogli le idee... Anche per i prossimi interventi. Invece con vado Tony in raccoglimento. Vai in raccoglimento. Con Tony volevo parlare subito di una cosa, visto che a Capodanno ho avuto una brutta esperienza. Diciamo che io con reggaeton ci vado da molto d'accordo. Allora introduciamo la cosa. Capodanno in un famoso da Natale siamo passati famoso a Capodanno. Locale di Corso Como. Io ho visto cosa facevo a Capodanno e vedevo questo programma di musica anni 60-70. Ah. Si chiama Flower Power, Fili e Fiori. Che promette bene. Vabbè, una cosa diversa rispetto a tutto il resto. E vabbè, i miei amici hanno detto, vabbè, andiamo, dai, proviamo. Quanti andiamo eravate? Lì. Eravamo in 4, barra 5 perché il quinto ha fatto bene. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, entriamo alle 11:30, inizia con musica anni 60-70 e vabbè, arriva la mezzanotte, celebrate, tutta sta roba qua. Dopo 10 minuti iniziamo a mettere su il reggaeton. Porca ho detto vabbè, metterla appena appena. Poi due, tre canzoni, no, magari. No, ma cambia il DJ, cambia anche la musica, è ancora peggio. Cioè, vabbè, lasciamo stare, veramente io il reggaeton... Dalla padella alla brace. Mi sono proprio bruciato... Quindi potremmo dire che reggaeton is new piaga d'Egitto. È più piaga del mondo, per dire. Vedo qualcuno che si ribella. Sentiremo anche lei dopo. Va bene, così va ci bene. Cazzi a tutti proprio. No, vabbè, vediamo un po' i gusti musicali. No, sono gusti musicali opinabili. Vabbè, sicuramente. A me lui il reggaeton, diciamo che non piace tantissimo. Io ascolto, diciamo quasi tutto. Ma anch'io ascolterei tutto, anche il reggaeton, sinceramente. Qualche pezzo può anche piacere anche a me. Però, uno, due, dici. Però, la massiccia programmazione che c'è in giro nei locali, così, vabbè, non l'ho mai avuta, cioè su altri generi, come fosse stato il rock, la dance ai 90. Ah, ma ci sta anche qualcosa di diverso dal rock, eh? Sì, ma il 90% è... reggaeton tutta la sera, cioè tutti no, i locali. No. Le brutte. Va bene. Quasi troppo. Iniziamo i nostri viaggi musicali, visto che il programma è proprio Wolf Trips. E dove andiamo? Siamo negli Stati Uniti. E ai ai. È un progetto abbastanza nuovo. La musica non è proprio super pompata, però è molto d'ascolto, quindi ci sta bene. Andiamo ad ascoltarlo. Quello mi sembrava più un treno. Il brano è di Marian Hill con Down. Andiamo a sentire un po' come suona. È abbastanza rilassante. Sentiamo. Didn't even really wanna go, but if you get me out, you get a show. There's so many bodies on the floor, so baby, we should go and add some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? down, did it down, did it down, did it down, down, down. Everywhere I look at people's hands, thrown up in the air to help them dance. Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down, down, did it down, did it down, did it down, down, down. Are you Marian Hill, mi veniva a dire Marion Hill. Maria Collina. Qui mi richiamano Collina all'attenzione. Beh, non era male, a me non dispiace. Sì, no, no, era molto da relax, tipo quando sei in vasca da bagno e sì, metti sì, su sì, questa canzone. Magari qualcuno dormenti, non si muove. Intanto oggi abbiamo completato il set di 4, quindi possiamo giocare alla partita a tennis. Yeah. Preferisco ping pong. E infatti sto visto l'altezza, sì, va bene così, dai. Salutiamo quindi Erika, che dopo una bella giornata di lavoro è venuta anche esatto a trovarci, giusto? Ciao ecco a tutti. Esatto, dopo 8 ore, anche di più, in piedi da Media World. Una sopravvissuta. Vabbè, intanto... no, ti volevo, visto che prima è storto il naso. Ah, sì, aia. Ai, ai, ai, già iniziano. Come ospiti mi so che sono già cazzato. Ma no, dai. No, che musica ti piace? Ma a te non piace il reggaeton, dai, non è vero. No, invece non guarda, ci ti dirò che non io, nonostante credo la maglia che indosso, nonostante quella dei Guns N' Roses, che non sai neanche cosa... No, no, no, lo sa perché l'altra volta abbiamo messo dei brani... No, no, e... no, lo so perché sono stata l'anno scorso a Imola e tornerò quest'anno al Firenze Rocks a sentire Guns. Io ci sono stato 25 anni fa, figurati. Quindi assolutamente... So di cosa sto parlando. A me la musica piace tutta in realtà, però allora la musica rock mi ha accompagnato per tutti gli anni delle elementari. Poi sono arrivata alle medie e basta, non lo so, ho scoperto l'esistenza di Eminem e grazie a Eminem mi sono data al rap. Poi ho scoperto che anche se sono una frana mi piace ballare, quindi il rap è diventato un hip hop. E quindi poi l'hip hop, a me piace lo spagnolo e quindi aia. In realtà a me piace io già confondo l'hip hop con lo spagnolo. No, assolutamente, però mi piace. Sì, perché poi adesso tutte le serate viaggiare un po', dai, fanno hip hop e reggaeton, cioè sì, sono esatto due cose completamente sì, diverse. Esatto, sì, anche bravo, se so che la base è la nata... base è quella praticamente, no, allora, appunto, più o meno da un dai punto di vista sociale è tutte e due forme di protesta sono certo nate così. Poi vabbè, l'hip hop è nato anche per quelli che ballano, queste cose qua, anche il reggaeton si è evoluto su altre sì. strade. Ma invece adesso che hai fatto questa digressione molto colta, andiamo a parlare un po' di robe più leggere, visto che l'argomento della serata era il Natale e il post Natale. Vai, chiedi qualcosa. Io ce l'ho con lei. Ma allora dai Cristina, facci delle domande. No, allora io stasera propongo l'espulsione di Domenico Biancardi dalla radio. Anch'io la propongo. Anch'io la propongo. La tua espulsione. Vai, io vabbè, ci dai, sto. Il regista lo so fare anch'io, dunque tranquillo. Bravo Tony, grande. Allora Erika, torniamo a noi. Lasciamo perdere quei due, attenzione a quei due. Cosa hai combinato nelle vacanze di Natale? Allora, nelle vacanze di Natale sono stata a casa con la mia famiglia, con i miei genitori. E niente di entusiasmante, mi ecco. Mi sa che un po' tutti mi sono noi data stati... al cinema. Quello sì, ho visto tanti film al cinema. E non solo. Giusto per il tuo blog, giusto? Esatto. Perché dovete sapere che Erika ha un blog. Esatto. Io ho sentito che... il cinema italiano è sceso di brutto come, come visitatori, nel senso 46% di persone che vanno al cinema. Il cinema italiano, attenzione, allora, il cinema italiano. Cinema italiano è calato molto perché da qualche anno, a Natale soprattutto, il cinema panettone non è poi così tanto valutato, diciamo, per fortuna aggiungerei. No. Vabbè, dai. Allora, lei non sa cosa, il cinema italiano si divide in allora la commedia, il comico italiano in realtà si divide in due grosse categorie. Allora, la commedia, che in realtà ormai non è più una commedia come la vecchia commedia all'italiana del dopoguerra, che raccontava cose reali, cose anche drammatiche in una maniera abbastanza divertente, ma è diventata la commedia sexy. Dagli anni 60, più o meno, ha incominciato ad emergere questa commedia con Lino Banfi, Massimo Boldi, Christian De Sica, eccetera, eccetera, che sono molto... volgarotti, diciamo così. La commedia in Italia nasce per altri motivi. Si parla di questioni sociali, di questioni anche importanti, con un lato comico. Devo dire che ultimamente questa cosa sta ritornando un po' in voga. Mi sembra il paragone con il reggaeton. Ma no, perché? Che partito sociale è arrivato... Perché? No, appunto, come tutte le cose, alla fine, quando incominciano a diventare popolari... Sì, cioè, la base è buona. Vero. Scadono quando cominciano a diventare popolari, commercialoni. E però anche quello aiuta il cinema o aiuta la canzone, quella più... Aiuta le case di produzione. Qualcuno le dovrà fare anche, sì, dipendente. A guadagnare un po' i soldini. E questo si vede che c'è il blog. C'è il blog. No, ma poi dopo approfondiamo la cosa. Allora, ti lascio con una domanda che rispondiamo dopo e sicuramente ci sai dare una bella risposta. Cioè, sì. Nel senso, qual è stato un po' il film... secondo me quello che migliore magari per te e anche a livello cinematografico del 2017. Il film di tutto sì, il 2017. Ne parliamo pensaci dopo. Lanciamo adesso il prossimo brano, visto che abbiamo parlato di roba un po' più commercialotta. Ah, ci picchia. Allora, il gruppo sono gli Holy City, la canzone è Firefly. Sì, è una cosa più semplice, no? Sì, ma infatti l'ha fatta apposta, l'ha scelta apposta. Ovvio. Teach me how to dance. eyes as they said farewell. But I'll know where several are if my dreams get real bizarre. 'Cause I saved a few and I keep them. Eccoci. Bravissimo. Vedi che sta imparando. Beh, in fondo ormai l'allieva batte il maestro. Ah, sicuro. Poi guarda oggi con quello che ho combinato oggi, bro. Beh, stiamo parlando di cinema. Di chi è la colpa? Scusa. Di chi è la... Vabbè, era il momento Raimondo e Viamello. Ecco, infatti. Ok, chiudiamo la parentesi. Raimondo e Viamello soprattutto, eh. Chiudiamo la parentesi. Stavamo parlando di film. Di cinema. Che... di cinema. La nostra blogger. Esatto. Non si ricorda quel film che l'ha colpita, no, di più. No, è che ne ho visti talmente tanti. Ma adesso aprendo il mio blog. Ecco, ti sei ricordata. Intanto cominciamo a dare il nome del blog. Esatto, il blog si chiama Scheggia d'Arte. E lo trovate all'indirizzo erica con la K cammarata.wordpress.com. Allora, riguardando i miei articoli sul blog, mi è rivenuto in mente... Ci sta, il blog è anche una specie, cioè, una specie, esatto, di... Esatto, ne ho visti troppi di film. Mi è rivenuto in mente un film che sicuramente per me ha rappresentato il 2017. E sto parlando di Seven Sisters. Quindi è un film con protagonista indiscussa Naomi Rapace. E, praticamente tratta la storia vera, in realtà, perché sono una situazione che in Cina è successa veramente. E praticamente la politica del figlio unico, perché insomma sono vari problemi, non si riusciva ad avere troppi soldi, non si trovava lavoro, c'erano troppe persone, quindi la Cina, e anche in questo caso un mondo futuro, perché stiamo parlando del 2070, hanno adottato la politica del figlio unico. Sinceramente, quando è stata la politica? Un po' prima, 1900. Ma è da pochissimo 30. Che poi l'hanno tolto. Sì, sì, l'hanno tirata via. Poi io faccio una premessa: oggi ho letto un articolo che c'è tutta quella, come dire, quell'aria che non si respira più in Cina. La gente ricca cosa fa? Abbandona la città e va in campagna, e con questo praticamente va a attaccare altri posti, cioè di natura così, che ancora l'uomo non ci è arrivato, certo. E vanno e praticamente stanno devastando un pianeta. Cioè. Esatto. Vero, vero. E quindi rientra nella questione del, esatto, del il film figlio si unico. Occupa proprio di questo, praticamente all'interno di questa situazione. C'è una donna che partorisce sette figlie. Oh. Sono sette gemelle. Come si fa a fare a sorvolare questo problema? Qua interviene la genialità di un nonno che chiama le figlie lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, e queste usciranno di casa solamente il giorno del proprio nome. E vabbè, ma che culo. Veramente, tutti gli altri giorni a casa a fare un... Ma se sono tutti uguali, come fanno a distinguersi? Però non possono. Ma infatti nel trailer, se tu guardi il trailer, che mi ricordo, poi alla fine li scoprono, giusto? Sì, esatto. Quindi cioè, la storia succede un po', succede... un bel casino. E il bello è proprio la capacità, la bravura di questa attrice di interpretare in maniera, secondo me, veramente riuscitissima, sette persone simili ma completamente diverse tra loro, con accenti, modi di esprimersi, anche camminate, caratteri esatto, totalmente diversi. Sì. E soprattutto la difficoltà di recitare con se stessa. perché in realtà le scene sono praticamente tutte girate in green screen. Ah, okay. E lei praticamente deve... Scusate, interpreta. Sì. Allora tu hai dietro un telone verde. Sì. Praticamente fai quello che devi fare. Sì, sì. Hai quel computer. Poi col computer ti mettono dietro uno sfondo, ti mettono dietro altre persone. Praticamente lei ha recitato tipo 100 volte le stesse sola. Scene, sì, sì. Con i vari cambi di Infatti capelli. C'era la neuro pronta fuori. Esatto, dal... perfetto. Beh, diciamo che ha fatto molto più teatro che cinema. Cioè... È una cosa da grande attore. È una cosa da trasformisti, quindi sicuramente sì, però giustamente c'è dietro tutta la macchina del cinema, perché senza la macchina del cinema il film Ma non quanti sarebbe... sono andati a vedere questo film? In realtà non credo tantissime persone, ti dirò perché. Perché è stato ritirato, perché è stato un film che ha suscitato molte critiche. E ovviamente i signori di Non citiamo dove hanno pensato bene di chiudere, di ritirare il film dal programma. Ma dalla sai che è vero? Cinema. Perché mi ricordo il trailer lo pompavano tantissimo, sai, tutti i vari. Al cinema è stato fuori meno di una settimana. Al Io ho fatto è stato appena fuori in tempo è stato a fuori vederlo. Sì. Vero, vero. Quindi questo per te è il migliore del. Sì, del 2017. Questo, e vorrei fare una nota d'onore anche a The Greatest Showman. Che è il film che è stato candidato ai Golden Globe. Qua sta succedendo qualcosa in cuffia, non capisco cosa, ma va bene così. No, The Greatest Showman, sì, effettivamente. The Greatest Showman, che ha ricevuto delle candidature al Golden Globe, soprattutto per l'attore protagonista Hugh Jackman. Ok, ok. Adesso andiamo ad ascoltare Kaminsky con Night Call, che è stata estratta dal film Drive. Non so se l'hai visto, intravisto. Non l'ho visto, ma so di cosa parlo. Ok, ok, andiamo ad ascoltarla. There's something inside you. Era bello elettronico. Eh sì, infatti. Tra l'altro io di Kavinsky mi ricordo tantissimo un pezzo che si chiama Testa Rossa, molto vecchio, era bellissimo. Sì, non so se fa parte dello stesso album. Sembra di sì. Sì, perché poi la sua produzione non è così ampia, è abbastanza... No, no, no, però è proprio Testa Rossa, magari lo metteremo nella prossima puntata, è un giro di synth fatto tipo chitarra, è proprio fatto molto particolare, molto bello. Bene, allora, quindi adesso possiamo introdurre la nostra nuova rubrica di Wolf Trips, giusto? Sì, sì, io ho pensato di chiamarla Mezzatonica. Giusto, giusto, in modo che spezzi un po', no? Giusto, sì, sì, cioè un pezzo adesso, un pezzo dopo, poi mezzatonica anche per dire... Io gioco sempre sul fatto della mia altezza, no? Queste cose qua. Sì, allora tu fai sempre i nomi che hanno un senso, più sensi anzi. Ma sai che col mio nome potrei fare un sacco di cose, Electoni, cioè tutte queste... Vabbè, Cagatoni. Cagatoni, Cagatoni. No. Vabbè, vabbè, partiamo da questa qua mezzatonica. Dai. Allora, diciamo che la mia ispirazione è un po' quella musica che vorrei mettere, magari un... in una spiaggia a fine giornata. Ah, quindi l'ispirazione sì, è questa. Il mio mezzo cervello che è rimasto Ibiza, diciamo. Ah, ok, ok. Che non sono tutti i pezzi che probabilmente c'entrano con un certo genere musicale. Qualcosa che però ti ricorda però quello. Perché poi in fondo un DJ mette la musica che piace a lui. È chiaro che deve piacere, se sì, riesce sì, a farla sì, piacere. Sì. Poi questi pezzi sono anche famosi, non è che... E il primo pezzo è di un gruppo, due elettronico, anche questi qua, sono... sono emozionato. Porca miseria, I Knox, sì, sì, sì. Hanno fatto un album che si chiama 55. Sì? Che questa canzone è il primo estratto, è uscito prima. E si chiama So Classic, che è fatto con un altro duo elettronico che si chiama I Powers. Che io metto spesso nel sì, programma. Infatti, tu conosci entrambi. Soprattutto mi piaceva molto la voce della ragazza. Sì, sì. E sì, anche sì, lei sì. È molto carina. Ecco, sì, sì, sì. Già la versione originale era molto funk, come dire, cioè... Quindi il genere comunque rimane sul funky. Questo, la versione, diciamo, originale. Però tra i vari remix ho scoperto questa Power Sunset version. Che è quasi da falò, no? Quindi andiamo a ascoltare questo brano, sì, che ci riporterà, diciamo, nelle atmosfere di Ibiza. Per... Anche qualsiasi spiaggia che siamo pieni in Italia. Va bene, va bene. Poi magari ne riparliamo. E poi torniamo dopo con l'altra okay. Mezza tonica. Ok, ok. So classic, yeah. intanto qua qualcuno canta in diretta. Sì, balla. Io sono già al mare. Qualcuno sì, disegna i fiorellini. Per dire la verità, effettivamente ti porta un po' al mare. Va bene, quindi l'argomento della serata era un po' la chiusura dell'anno e l'inizio delle feste. Scusami. Apposta. L'ho contagiato, vado a casa. No, Tony, ormai l'abbiamo perso già da un po'. Qual è l'argomento della giornata? Vedi che non lo sai. Natale, il Natale e le feste. Il post Natale. Natale al cinema. Ecco, no, infatti adesso stiamo parlando un po' del Natale al cinema. Abbiamo parlato prima del film un po' più bello secondo Erika. Adesso vediamo qual è il più brutto. Allora, come dicevo prima a Cristina durante la canzone, il film più brutto non lo posso dire perché non l'ho visto neanche il film più brutto. Cioè, dal trailer ho detto no, non lo vedo. Ogni tanto, però, Erika, devi scusarlo perché ogni tanto ha delle... Però dei momenti di svalvolazione proprio. C'è stato un film su cui avevo delle grandi aspettative e che mi ha leggermente deluso. Cioè, l'ho trovato bello, però speravo in qualcosa di più, ecco. E il film in questione è Assassino sull'Orient Express. Ah, che qualcuno voleva vedere a tutti i costi, giusto? Ma te sei cattiva, gli parli sempre di lavoro a questo ragazzo. Vabbè, no, ma lascia stare questo discorso. No, però mi ricordo che c'era un po' di nostri amici che volevano andarlo a vedere a tutti i costi, sono andati anche a vederlo. Sì, tutti in carrozza, non lo so. Non l'hanno visto? Sì, sono andati a vederlo. Cosa ti hanno detto? Sinceramente non lo so. Non hanno parlato, come te lo deve dire? Non fanno spoiler. Sono stati zitti per evitare di dire cattiverie. Ma è così terribile, cioè. No, allora, è molto bello in realtà, devo dire, però speravo in qualcosa di più, sì, nel senso che è molto lento come film. È vero che ricalca molto in questo caso il vecchio film, però è molto lento. Io pensavo che creassero qualcosa di nuovo, essendo nel 2017. Un po' più dark. Magari, sai. Un po', magari un pochino più, perfetto, sarebbe stato molto meglio, ecco. Grandissimo Tim Burton, lo salutiamo, esatto. ciao Tim che ci ascolta sempre. Sì, va, Vodafone. È il nostro migliore ascoltatore. Devo preparare un caricatore a salve. Kalashnikov. Vabbè, e soprattutto la mitica presenza di Johnny Depp sparisce dopo 3 minuti di film. Sì. Ma c'è proprio perché anche lui è morto. Ha fatto un cameo, dai. Non lo sapevo neanche sulla battuta di Tim Burton. Non la sapevo questa. Vabbè. E quindi abbiamo concluso il 2017. Io devo dire, a me non dispiace i cinepanettoni. Quest'anno c'è stato un bellissimo cinepanettone. Super Natale. Oh mamma mia. Dove c'erano un po' tutti, reunion. Sì, è stato un collage. Un collage di tutte le sì, scene. Il collage migliori. Quello di Boldi. Sì, De Sica, sì. Fatto da Paolo Ruffini. Sì. Vabbè, ma lui mi sembra che comunque è un esperto di cinema. No, Paolo Ruffini è veramente un super personaggio, ma anche Christian De Sica in realtà, perché comunque col papà che si è trovato ha cercato di emulare male, molto male, il padre, quindi per me no, però vabbè, diciamo che gusti, ne sa parecchio comunque. di cinema. Sono gusti. Tranne nel cibo, perché io la Simmental non la mangio, glielo dovremmo dire forse, però vabbè. Era un messaggio subliminale. Mi sta seguendo. Va bene. Quindi chiudiamo il 2017 e poi dopo la prossima canzone. Ma se questo è l'inizio del 2018. Ma non parliamo di Star Wars, dai, l'ultima cosa. Star Wars, come sta? No, ma non ne ha parlato perché lei non... Per me no. Lei non sono piace. Una fan. Io l'unica cosa che sto attendendo con ansia di Star Wars che è finisca. lo spin-off su Han Solo, ma solamente perché c'è Emilia Clarke. Che sarebbe? Emilia Clarke. Come che sarebbe? È la madre dei draghi. Il trono di spade. Ah, aiuto. Guarda, io ho a casa una ragazza che è malata di trono di spade. Giusto, giustissimo. E Doctor Who, che alcuni personaggi di quella serie lì viaggiano in questi film. Anche sull'Oriente Express c'era un assistente del dottore. Adesso non so che personaggio. Lo so. Quindi, dottor Vu, ho visto solo le parodie di Macho Capatonda. Davvero? Però non è faglielo vedere la Debora. Va bene, va bene. Quindi stavo dicendo, adesso andiamo a ascoltare un brano. E poi dopo vediamo invece com'è la ripresa del 2018. Infatti. Andiamo a ascoltare Moby con Flower. Andiamo un po' indietro nel tempo. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, gotta tell the crown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, gotta tell the crown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, gotta tell the crown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, gotta tell the crown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, gotta tell the crown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, gotta tell the crown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, gotta tell the crown. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me here to weep and moan. Bella, mi è piaciuta. Quindi questo qua ci suggeriva la nostra amica Erika, che era la canzone presenta in Gone in 60 Seconds. Gone in 60 secondi. Esatto. Quel film era bello. International Tony, cazzarola. Facciamo finta che non lo sapevo. Oh, stava volando giù. Io ammazzo le persone, mi abbatto da sola. Va bene, qualcuno sarebbe contento. No, perché no, non ho mai detto questo. Ma solo pensando. Ma ditemi un po', com'è la ripresa del 2018? Cioè, per me è stata proprio drastica. Un devasto atomico proprio. Anch'io non sono ancora in fase. Cioè, boh, non lo so. Se questo è 2018. Tristezza. Sì, tristezza. Potrebbe andare meglio, ma neanche anche peggio. No, no, vabbè, dai, diciamo, piano piano vai a salire. Sicuramente. Adesso c'è il post vacanze che veramente in vacanza si è abituati a cazzeggiare, a svegliarsi tardi, a non uscire. Beh, io le vacanze le considero più con le estive che con invernali. Voi siete andati in montagna, avete fatto altre cose, però per la gente comune che rimane nella pianura, nella nebbia. Ma io te l'ho detto di venire. Sì, vabbè, ma non c'è il tempo. Bah, come? No, ci vuoi 2 o 3 giorni. Ci vuole il suo tempo. Te, Erika, hai già ripreso a lavorare, quindi anche te. Ma sarà devastante. Io in realtà ho ripreso alla grande. Sì? Sì, ho ripreso alla grande perché ho, insomma, delle buone notizie, quindi perché no? Bello. Beh, allora sì. Va bene, sì, va ma bene. Però scusa un attimo. Sì. Adesso fa la cioè, non è che fa la misteriosa, però adesso vorrei sapere. Io sono misteriosa. Dal punto di vista lavorativo o sentimentale? Dal punto di vista delle soddisfazioni lavorative, sentimentali lasciamole da parte. Ecco. Vedi che non è un anno di merda. Ma no, ma non è vero, anzi, guarda, io l'anno scorso ho capito che devo ricominciare da me. Brava. E brava. Quindi mi sono data molto da fare e ho ricevuto tante soddisfazioni che si stanno mantenendo in questo inizio anno e spero per tutto l'anno. Beh sì, dai, perché no. Ma lavori alla media, forse, se ho capito bene. Sì, lavoro nel weekend da Media World. Okay, no, solo nel weekend. Scusa. Cioè, ma diciamo che fa tutto molte infatti. No, perché non penso alla grande carriera. No, in realtà faccio tantissime cose, infatti. Perché oltre al mio blog ho iniziato una collaborazione proprio adesso, nel 2018, con altri due blog. E poi sono stata, possiamo fare un po' di pubblicità, vabbè, gratuita, Caterina Balivo, sono stata in programma Detto Fatto. Tra l'altro io ho visto la puntata dove c'eri e il tavolino, quello bianco col vetro, sì, è come il mio, uguale. Uguale. Fantastico. Di Caterina? Design. Mi hanno copiato il tavolino. Caterina, c'è qualcuno che ha copiato il tavolino? No. Io ormai ce l'ho da anni, quindi cioè noi mettiamo musica così sofisticata e poi si parla di Detto Fatto. Cioè, siamo all'Ikea, esatto, ragazzi. Vabbè, fa niente. Poi la soddisfazione più grande in realtà è che dal momento che ho scritto un cortometraggio, che poi in realtà sta diventando un mediometraggio, stiamo portando avanti le riprese e adesso siamo in ballo con la documentazione per girare delle scene un po' particolari e vediamo un po' cosa ci faranno, come ci faranno, okay, tribolare. Casa di produzione non è Rocco il Podesto. No. no, ci stiamo autoproducendo tutto, quindi è interessante, potrebbe tornarci utile anche per altre robe. Va bene, e quindi tra poco dovrebbe arrivare anche il meteo, mi raccomando. Centro Epson Meteo, cioè abbiamo il Centro Epson Meteo per domani. Ho già messo gli occhiali anche se ce l'aveva. Eh sì, no, infatti, perché bisogna intercalarsi nella parte. Un momento importante. Sì, però prima di ascoltarci un brano che è Disclosure, non so se l'hai mai sentito. Cantante Sam Smith. Ma non si dice Disclosure? Disclosure. Hai toppato. Ma non lo so, stasera è tutto... Disclosure. Il brano è Latch. Latch. Che quindi quando Sam praticamente Smith, sì, vero. Sì, dai, no. Praticamente quando vai in giro, no, e forse ti slatch, allora li allatch. Questa cosa orribile. Cristina, poi vabbè. È l'Alzheimer che avanza. Andiamo ad ascoltarcelo. No, è la demenza questa. Charming, even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. chiamavano questi? Lo dice la bloghista. Io, oddio, non mi ricordo. Disclosure. Disclosure. Lecce. Ok. Lecce che tal Lecce. Lecce che barese, sono barese, sono barese. Sono di Bari. Vabbè, quindi, cose quindi che faremo nel 2018, visso che abbiamo comincia tu. Non lo so, iniziamo a finire il programma oggi. Facciamo un passettino alla volta. Vedi. Perché? Tu cosa farai? Cosa farai nel 2018? Che propositi c'hai nel 2018? Io ho tanti propositi. Dimmene uno. Senza di te. Questa era sempre la parentesi. Te sei fortunato che te lo dice. Io ci spero. Non... Vabbè. Che ingiustizia, vedi? Hai sta fortuna. E tu Tony, che farai quest'anno? Che idee hai? Che idea già di venire a questo programma che è stato un onore, grazie per l'invito. Di farci compagnia, di essere con noi. Diciamo che era un po' di tempo che ero un po' fermo con la radio. In attesa del mio futuro programma che ho sempre detto di fare il sabato. Non so quando. Vabbè, inizia a prendere la mano. Magari essere più... come dire, presente sui social, magari anche mettere un po' di musica che piace a me, un mixato, queste cavolate qua che ti fanno conoscere in giro, non a livelli magari di andare chissà dove a suonare, però perché c'ho un mio amico che lui alla sera, lunedì sera, è venuto anche qua come ospite, fa la sua musica, fa la sua diretta live anche col Facebook in pigiama. Ah, buona. Ma sai quanta gente, ma perché poi c'ha una simpatia, no? Che la gente che lo contagia. Segue, fa musica anni 90, 2000, queste cose qua, sì, che contagia. E poi ha fatto un disco che nel suo piccolo ha avuto un grande successo, ha anche fatto delle stampe in vinile. Ecco, vedi, vedendo lui come esempio, cioè. Ok, quindi hai ti un piacerebbe, insomma. Sì, diciamo seguirlo, seguire la sua impronta. Sì, sviluppare un po' i miei hobby. Ecco. Sì. Tutto ok, lì. Ok, ognuno c'ha le sue cose. Tu Erika? Vabbè, un po' di cose ce le hai già svelate, però. Sì, ecco, sicuramente sarà il mio grande proposito, obiettivo in realtà di quest'anno è sicuramente portare a termine la realizzazione di questo mediometraggio che si intitola Il profumo del successo, dirò solo questo. E poi ho qualche programmino per quest'anno, perché ho appena prenotato 4 giorni a Bruxelles ad aprile. Oh, bello, esatto, bello, con molto le mie bello, amiche Bruxelles universitarie. Io ci sono stata, molto bello. Bene, ottimo. E poi sicuramente il Firenze Rocks. Che tra l'altro anche la radio è un partner, in teoria, da quello che si dice. Dietro la locandina è scritto? Sì, sì, ah, sì, ok, sì, ma, sì. Vabbè, magari. Sì, no, era così. Dovrebbe essere l'evento dell'anno, dal punto di vista in Italia? Sì. Adesso sì, non sì. ho presente i Guns. E Foo Fighters. Iron Maiden, credo. Ozzy Osbourne, vabbè adesso altri, oddio. Sì, comunque è tutta gente giovane. Sì. Eccoli qua, aspetta. Ah, vediamo, perché Domenico è sempre avanti. Gli Iron Maiden, giusto, bravo. Gli Avenged Sevenfolds. E Judas Priest, Vabbè. Sì. La roba buona non ha mai età, ecco. Senti, ma sti però plus guest suonano tutte le sere? Sì. No, in realtà sono usciti proprio i nomi delle varie band. Vabbè, immagino band sarà più sconosciute e... Ma sconosciute in Italia o... Io non li ho mai sentite, sinceramente. Ho anche ascoltato dei brani, ma non mi ispirano neanche. Non ti viene in mente, non so, un Luis Fonsi, quelle robe di Fonsi. No, un Despacito. Un Pitbull che... Ma Pitbull c'è sempre. Pitbull. Io direi di mettere Despacito per Tony. Esatto. Ma sai che c'è, no, c'è la versione salsa che mi piace un sacco. Sì. Caspita, vedi? Vero. Ecco. La versione salsa. Adesso Despacito. No, allora, la puntata vorrei caricarla poi in podcast, quindi va bene, però diciamo che va bene tutto, però c'è un minimo di decenza, vorrei tenerla, ecco. Vabbè,

peccato, peccato. Mi sa che non hai azzeccato il pezzo. No, allora, il gruppo sì, dai, il gruppo mi piaceva. Sì, anch'io no, me lo ricordavo soprattutto della copertina del loro primo album, quello sì, con la, sì, la disco bolla, no? Sì, sì, sì, sì. E beh, quello era proprio, richiamava proprio Daft Punk, sì. Che era il brano che si chiamava Daft Punk is not place. Che non suona in casa mia. E in realtà poi richiamava lo stile delle Daft Punk. Questo invece io direi The Ball of no, at the... Ma di che album è questo? Lasciamo stare. The Show Must Go On. Bravissimo, sì. Dai. Va bene, quindi stavamo finendo di parlare un po' del 2018, giusto? È già finito! Sì, sto finendo. No, stavamo finendo nel senso, continuiamo a parlare del 2018. Tu qui, che e poi buoni propositi hai? Boh? Ah, beh. Tra l'altro, di vivere la vita giorno per giorno. Iniziamo a finire il programma di oggi, poi vediamo. Vediamo domani cosa fa. Ti hai visto? Sono diventato un po' saggio in questo momento. Cioè, se io so che... magari devo prendere un treno, ci ha messo lui le mani, ragazzi. Non lo prendi. Stamattina mia mamma mi fa: ma che cosa avete combinato a Varese? Cioè, perché? Che è successo a Varese? No, perché abbiamo modificato un po', diciamo, la viabilità dei treni. Quindi, cioè, passati... quindi non partono più treni. No, partono. Le carrozze partono. Lasciamo stare questi falsi miti, insomma. Partono le vaporiere. Mi ricordo un nome di un vecchio film di... Renzo Arbore, non so se lo conosci, FSSS, che cosa sei venuto a fare? Sì, no, ma è un film, diciamo... No, non lo conosco. No, ti consiglio. No, lo conosco. No. Vabbè, lo vedremo. No, lo vedremo. Ma il titolo del te film. Non lo vedo. No, no, no, non mai neanche sentito. Davvero? E poi sì, è il famoso... Renzo Arbore. Johnny. Renzo Arbore, sì, sì. No. Che c'è anche un famoso scrittore napoletano che ha fatto molti libri sulla psicologia. Ma è famoso, quello con la barba, non mi ricordo il nome. Due occhi, qual è? Un naso, una bocca, sai che due orecchie, non mi viene il nome. Un corpo, due braccia. No, no, ha fatto libri di psicologia che parlava dell'antica Grecia, così, Freud, in modo comico. C'è un discorso serio. Vabbè, vabbè, no, vabbè, così è così. Ma okay, queste... Ma Tony... Ste diamine di previsioni meteo, devo andarmene a cercare su internet, certo, o ti arrivano e ci fai sapere qualcosa? Mo quando arrivano... Porca miseria, guarda, uno paga un servizio... Ma ti arrivano servizio... sulla Tribimeteo o su meteo.it? No, meteo.it. Meteo.it. Ah, okay. Cioè, ma dimmi te, uno paga un servizio e non... Cioè, non so cosa dire, veramente, sono ma davvero... Sei in Italia. Allibito. Sei in Italia, paghi le tasse. Allibito. Basta. A proposito di allibito, salutiamo Allibì, che siamo andati a trovarlo sabato, non so avere il... Sì, ciao Ale, ciao se Ale. Si ascolta. Ciao Ale. Ti vogliamo bene per tutto, comunque. Comunque io ti avevo avvisato sullo suo stile musicale, nel senso lui è un bravo DJ, però giustamente segue molto il reggaeton. Guarda che se un giorno magari saremo suoi ospiti, non lo so, ma... No, no, ma allora, ma lui comunque suona quel genere lì perché è richiesto. Bravo, ma non perché gli piace. Ma allora, il punto so da capo perché... la musica di M che c'è in questo momento e vabbè così. Vabbè, io quando facevo il DJ domani no, sarò scritto sul suo blog non ascoltate nella quel lista nera invece che di non aprite quella porta no, non ascoltate quel programma. Potrebbe essere il titolo di un titolo, nuovo articolo, il titolo. Non sarebbe male. Quindi hai qualche novità? Quindi o sì. Oh, c'è la novità. Sai che domani devo andare in bici. C'è la novità. Sapere buone notizie, dai. Sì, domani puoi andare. Oh, domani bene, è bello. Temperatura minima 0 gradi e massima di 9. Va bene, quindi, va bene, dai, tutto andare, sommato non fa così tanto freddo. Cioè, detto così io non apro neanche il garage. Vabbè, ma la minima lo sai, è di notte. Però in settimana, no, però no, in come... settimana... Scusa, il suo tono di voce che mi ha fatto paura, non tanto la temperatura. Settimana, dai, non danno bruttissimo. Qualche bene, giorno dai, sarà coperto, qualche giorno sole, quindi... Posso andare a zappare la terra. Vabbè, ha fatto più freddo a dicembre, eh? Magari. Ma che zappare la terra? Cioè, va bene, tutto, così però almeno porti a casa qualche patata, qualche carota, pomodoro. L'ha detto lei. Vabbè. Sti maschi, avete sempre la patata in testa, veramente. Vabbè, è così. Non ho parole. Beh, il grave se è il contrario. Cioè. Allora, porta anche qualche pisello, cioè, a casa. No, beh, magari, io penso al Wurstel, però vabbè, che con le patate... No, no, piselli. Senti, facciamo così, mangiamo mais che almeno è asessuato e via. No, allora, il maschio pure quello, il mais. No, il mais, cioè, non è una forma, non è una forma. No. Chiediglielo a Freud. Tutto può essere fallico. Freud, mannaggia lui. Senti, facciamo così, andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, va, che forse è meglio, visto che la situazione qua sta degenerando. Ci sta sfuggendo di mano. Quindi allora il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è Midnight City di chi? M83. Eccoci qua, stavamo documentando un po' di film in attesa 2018 e tra i film più attesi ci sono le 50 sfumature di rosso. Stiamo vomitando intanto qua per terra. Ma perché le sfumature di rosso in realtà sono quelle del sangue della gente che si suiciderà sulle sedie del cinema, oppure ecco, delle povere zucchine lasciate sulle poltrone del cinema. Piuttosto, minchia, avranno un bel da fare, quelli che puliscono il cinema dopo. Tutte le poltrone si devono fare. Va bene. Immagini orribili intanto nella... Agghiacciante. Agghiacciante. Ma pensa che succede veramente. Pensa solo questo. Ed è dura, Bad taste. È brutto. Vabbè, no, però vabbè. Dai, ci sono anche altri film molto interessanti. Stavo guardando prima. Quest'anno sarà sicuramente l'anno Marvel, perché ne usciranno parecchi, dagli Avengers a Black Panther a Ant-Man 2. E usciranno anche diversi film candidati, che sono stati candidati e che hanno vinto ai Golden Globe. Questi ultimi Golden Globe, tra cui Tre manifesti di Ebbing e Ella John con Emma Stone, e insomma ne usciranno parecchi. Ma una cosa, tu hai mai visto un film di quelli che hanno vinto, tipo, che so, Il Leone di Venezia? No, ma neanche quelli che ha detto lei adesso. A parte, no, che ancora non c'è. Tipo Il Leone di Venezia o L'Orso, quello di Berlino. L'hai mai visti quei film lì? No, non l'ho mai visti. Non guardarli. No, allora, alcuni sono belli, però altri sono molto d'autore. Allora, mettiamola io così. Ho i film... No, lei li ama, no, immagino. In realtà no, perché i film che hanno vinto... In realtà non sono anche solo dai palla. Trailer non mi sono piaciuti, e quindi non li ho proprio visti. Ma proprio il trailer tu lo guardi, mentre dici, ma... i film che sono stati bastonati dalla critica ma sono piaciuti tantissimo, soprattutto quelli di A Venezia, perché a me è piaciuto tantissimo, per esempio, La solitudine dei numeri primi. Bello, bello. A me è piaciuto tantissimo ed è stato molto bastonato dalla critica quel film. E niente, in un angolo c'era il 5 e dall'altro angolo c'era il 13, capito? Era così. Funzionava esatto, così il film. Esatto, perché erano in solitudine. Vedo tanti punti di domanda intorno alla faccia di Tony in questo momento. Dall'altro angolo c'era il 7? No, ma sono... Da parte il 3? Sono film che conosco solo di come il titolo, ma... Vabbè, Nymphomaniac l'hai mai visto? No, mi sembra che... No, so che è diviso in due parti. Guarda che... No, a me è piaciuto veramente tanto. No, io ho visto il trailer... Perché a parte il discorso sessuale è molto psicologico in realtà, quindi... Immagino che è quello che ha fatto... Vabbè. A me piacciono molti film psicologici. Uno dei film che mi è piaciuto di più, effettivamente, che ho visto quest'anno è Shutter Island, anche se vecchissimo. Sì. Perché mi piacciono molti film psicologici. Johnny Depp. Sì. No, no, Johnny Depp, DiCaprio. È vero, sì. Hai Shutter battuto Island. La blogista. Ha fatto la gaffona. Vabbè, continuiamo con un po' di musica, che poi dopo, visto che abbiamo parlato di cinema, dopo volevo che qualcuno ci raccontasse la nostra brutta esperienza. Devo mettere un po' il vuoto di qualche giorno fa, almeno rendiamo anche dotto Tony di questa cosa. E andiamo ad ascoltarci Flume con Never Be Like You. E ti guardavo perché secondo me... Fit Kai, che non sarà un cane dopo che l'han bastonato. Non lo conosco. Take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Do I make you wanna stay? Hate sleeping on my own, missing the way you taste. Now I'm fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Stop looking at me. Ma che barba! Abbiamo delle colleghe radiofoniche troppo, come si dice, technology addicted. Troppo social, guarda che stiamo parlando di Radio Lupo. Già stasera mi stai antipatico, quindi come vuoi essere mandato a quel paese? Poi tra l'altro mi hanno detto che non ho ricordato il numero di telefono, effettivamente è vero, perché non me ne frego proprio del WhatsApp, del WhatsApp, del... Vabbè, comunque lo ricordiamo, visto che qualcuno ha l'Alzheimer, 338-222-8983, ci potete contattare tramite WhatsApp. Anche messaggi vocali, eh. Anche tanto non li ascolterò io, gli altri fateci delle domande, chiedeteci qualcosa. Ma anche no, scherzo. Ma sì, dai. Dai. Cioè, poi ti chiedi perché nessuno ci scrive niente. Cioè, ma lo vedi? Vabbè, ma allora, che triste la cosa, interrompo un veramente attimino il vostro ragionamento che poi riprendiamo. Ma che ragionamento? Che sei triste? No, stavamo facendo un ragionamento serio sul cinema e dovevamo fare anche un, diciamo, un discorso molto serio su una situazione molto un po' triste che ci è successa l'altra volta. Però ce la teniamo per l'ultima mezz'ora, che tanto abbiamo ancora... abbiamo fatto ben 2 ore di programma. I dulcis in fondo. Infatti, perché è cambiato l'orario del nostro programma. Non sarà più dalle 20 alle 21, ma dalle 20 alle 22. Staremo un'ora più con voi. Ah, che culo. Infatti sembra che me lo dicesse a me come sono io la causa principale. No. No. Diciamo di no. Però, diciamo, visto che abbiamo avuto un po' più spazio, possiamo dare anche più spazio anche a te. Possiamo dire anche un po' più di minchiate. Possiamo quindi dire un po' di più minchiate, però, però in realtà Tony viene anche a fare un po' la parte seria. Sì, sì, infatti abbiamo questa aggiunta di quest'anno, fresca fresca, che dici mica se l'hanno ci aiuterà così, anche lui con la sua compagnia durante le nostre serate radiofoniche il venerdì. Sì, e mi limito solo qua, ragazzi, non è... Ah sì? Sì, sì, no. Bene, che... bene, allora prima avevamo parlato della, diciamo, di questa rubrica mezza tonica, abbiamo messo già un pezzo, quindi adesso c'è il secondo mezzo, il c'è fondo, il secondo round, il fondo del bicchiere. Così un mezzo più mezzo arriviamo a uno. Sì, beh, allora questo pezzo, vabbè, poi devo fare il pezzo serio, cioè io... Tony, non ti preoccupare, qua succede di tutto. No, va bene, no, ma è sempre meglio che una noia mortale, ecco. No, sì, no, sì. No, quello sicuramente no. No, vabbè, comunque dai. Un po' di raccoglimento. Allora, facciamo lo speaker serio. Allora, ho scelto un pezzo che è un pezzo storico rock, quello originale, dei Fleetwood Mac, tratto dall'album Rumours, che ha venduto 40 milioni di copie, cioè uno dei più grandi successi della storia. Però lei, che è Steve Nicks, che è una delle tre cantanti del gruppo, ha scritto lei il pezzo. Ma sono tre femmine? No, è un gruppo un po' strano, perché erano formate da due coppie, marito e moglie, e un altro che poi dà il nome al gruppo Fleetwood Mac, che le due coppie si sono divorziate e lui è stato pure tradito dalla moglie e dal suo migliore amico. Cioè, quando ho fatto questo disco era un periodo veramente un po' particolare, no? E questo era nel 77. E la canzone è stata ripresa da un gruppo music house, cioè un duo di DJ americani. Bravissimi. Che hanno richiesto al cantante originale, che poi ha messo questo pezzo nella sua raccolta ufficiale. Dunque è stato riconosciuto e secondo me è un pezzo spettacolare, che è anche forse il pezzo più famoso del Fleetwood Mac, che si chiama Dreams. È stato scritto in un momento di sconforto anche suo, della cantante, e lei è denominata la dea del rock. Però sì, perché ha fatto un sacco di successo anche con le sue canzoni. Sinceramente non le conosco molto io, perché è un gruppo americano, magari con loro un po', magari sono anche, non dico country, però il loro rock è un po' più diverso da quello inglese. Però sono famosi in tutto il mondo. Vabbè. Ma quindi fammi capire, è un remix, una cover, un rifacimento? E sai che non saprei cosa dirti, perché una cover sì, però la cantante l'ha ricantato lei, cioè non è la è voce. Un riarrangiamento, quindi con fatto sì, hanno cambiato solo la base e loro si chiamano Deep Dish. E questo è un pezzo che secondo me è anche in spiaggia. Quindi torniamo in spiaggia. Giusto, sì, dai, giusto, dai, dai. Per... Senti, però l'unica cosa, va bene, sì, il mezzatonico, quello vai, però portalo qualcosa da bere, no? Che cazzo, No, più che altro da mangiare. E lui vede il bicchiere mezzo vuoto. va bene, andiamo ad ascoltare quindi Steve Nicks, Dreams with Deep Dish. Deep Dish. It's only right that you should land away. bene, bella, sì, bella, proprio da spiaggia. Questa la suonavo anch'io comunque. Me la vedo pure, mi vedo la scena in spiaggia. Io e lui. Nella ciambella. Col fenicottero rosa. I braccioli, perché... Ho scatenato la follia. No, io e lui non in senso... In senso lato. Il costumino di Cars. Il costumino di Cars, bello. Cars. Di Cars, di Planes è meglio. Le ciabattine, quelle dei Minions. Basta. Ci stanno distruggendo. La cuccia, ciao, quella con lo squaletto. Un pezzo così bello. Poi vabbè, adesso invece voglio tornare a fare il momento triste. Ecco. Vedi, anche in bianco perché... cos'è che è stato? Martedì siamo andati al cinema? No, lunedì, non mi ricordo dove siamo andati. Martedì siamo andati al cinema a vedere il film di Jumanji, che non ci azzecca niente col vecchio, però non è male, è un po' diverso. Siamo andati... Allora, io vorrei fare una premessa. Io non c'entro nulla. Che bravo. Che... Vabbè, siamo arrivati lì alle 7:30. Sai che devi prenotare un po'. A 7:30, sì. Devi prenotare un po' prima. Dove? Al Cinelandia Gallarate. Abbiamo prenotato e quando prenoti devi essere lì. Devi essere lì un po' prima. Quindi per le 7:40. C'è un check-in. Sì, sì. Il film. Prendiamo i biglietti e niente, ci sediamo ad aspettare che deve iniziare il film. 8:40. 8:40. 8:40, sì, sì, siamo lì, cazzeggiamo. Dicevo, non c'era un'anima, tra l'altro. Vediamo la gente che inizia a salire, però vabbè, che ce frega a noi, no? Ma tanto noi stiamo parlando per i cazzi nostri, non è... Poi, cioè, con calma, tranquilli, mangia di qua, bevi il caffè, poi quello, sì, fuma, sì, sigaretta. Poi, vabbè, oh, senti, si stanno facendo quasi le 8:40, andiamo su a vedere un po' per la sala, per il film. Si fanno, prendono i popcorn, passano altri 10 minuti, La sala qual è? La sala è la 3. Sala 3, mi guardo e vedo che c'è la porta già accostata. Dico, boh, vabbè. Apro e vedo le scene di Jumanji. Cioè, ma è già iniziato il film? Il film iniziava alle 8:10. Era sbagliato dove? Nel nostro cervello. Nella nostra testa, perché eravamo... Io e lui, io e Domenico, convinti che iniziasse alle 8:40, mentre iniziava alle 8:10. Un grande applauso, bravi! Non mi è mai successa sta cosa, eh. Dopo avevi speso anche 50 euro in extra tra mangiare e bere. Ma vi siete fermati anche per lo spettacolo dopo? Si può fare? No, non si può fare. No, perché vengono quelli che puliscono. Però devo dirti la verità, non è stato male vederlo dopo, perché poi ho fatto tutto il tempo a cercare di capire il perché succedevano le cose, perché non ti eri perso il pezzo iniziale. Quindi stai ancora più attento. Fino alla fine non ho capito molto. Diciamola così. Però dai, non è stato brutto. È andato bene comunque come film, no? Sì, molto, anzi, a dire la verità è una proprio sorpresa. In cima alle classifiche una adesso per spettatori. Ha surclassato anche Come un gatto in tangenziale, quello di Riccardo Milani. Comunque è un misto, secondo me, tra Fast and Furious e, e non lo so, Assassin's Creed, ecco. No, è vero, caspita, sì. Secondo me sì. Sì, sì, ci sono tizi moto, c'è l'elicottero... E poi ci sono queste cose un po' ninja, un po' bla bla bla bla bla bla bla bla. Comunque non è brutto, fatela vedere. È come, vedi come è spiega, come un vero videogioco. Vedi, caspita, il nostro quasi, quasi... fondatore del programma come spiega le cose bene, wow. Quasi quasi l'ho intervisto per un nuovo articolo sul... Andiamo bene. No, beh, io ho visto ieri sera un attimo Sant'Andrea, quell'altro film con sì, The Rock. Sì. Ho visto due minuti, no, perché... Okay, poi hai cambiato canale. Sì, ma mi viene proprio... Zappavi? Sì. E, la terra, coglievi anche tu le patate? Non le raccolgo perché non posso. Va zap, va. Vabbè, no. Vabbè, siamo alla fine del programma, ci sta che iniziamo a fare cavolate senza senso. La faccia mi di Tony in quel momento. No, fantastico. Io guardo già le facce che fanno gli altri quando dico le mie, dunque la mia è sempre meno grave di quelle che fanno gli altri verso di me. Va bene. Adesso andiamo ad ascoltare... Comunque qua nessuno che zappa piselli, Ma te? Io ho un orto di patate. Rosse o gialle? Tutti i colori. Andiamo ad ascoltare adesso gli ultimi due brani per oggi. Abbiamo gli dovuto... ultimi due. Se guarda che sono quasi le 10. I tuoi 5 brani. Parla, disfa, fai e disfa. Si sono fatte quasi le 10. Oh, dobbiamo, non abbiamo più il cuscinetto come prima. Chi sono i 5 brani? Allora, praticamente volevo mettere i 5 brani della classifica che sto facendo su Wolf Trips, su Facebook. Sul Facebook. Però gaming a tempo, mettiamola, l'ho detta proprio così, diciamo, in dialetto lombardo. Cosa fai, stretto, le stretto. Prime due? Le prime due. Cioè, io avevo fatto l'ultima e la prima. L'ultima e la prima non ce l'ho. Okay. Ah, zazzone! Mannaggia. Gianna hai detto? Va bene, andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che quindi è la numero 2, diciamo, della classifica. Guarda la faccia. Io ho già chiuso la mia esperienza qua. Con Gianna. E qualcuno forse l'ha anche messa, non lo so. No. Allora, il brano è ZHU, che non so come si pronuncia, sarà Zuma, secondo me ha una declinazione particolare. È una cantante, mi sembra. Sì, con Skrillex, tra l'altro. Sì. Però io non ci c'entra, vedo. Non c'entra nulla, in realtà. Il brano si chiama Working For. Non sì, è... ascoltiamo. Andiamo ad ascoltarla, poi dopo mi dici un po' che ne pensi. Quel di Radio Lupo Solitario. Stiamo riacquistando un po' di serietà, giusto per la fine, no? La parte finale. Ah, sì? Sì. Ah. Va bene. Mamma mia, io devo dire che il pezzo che ha messo adesso vale tutti quelli che... cioè, stupendo. Bello, ne? Bello, molto bello. Complimenti a Domenico. Ta piace. Sì, perché poi parlano di Skrillex. Sì, ma non diglielo troppo, sennò si monta la testa. No, vabbè, dai, più così non può crescere. Che cazzo c'entra? Si monta la testa, al massimo si gonfia. Sì, ma lo diceva anche quello dell'IKEA. Che l'ha montato, che l'ha recuperato da qualche scatto vecchio. Io non lo voglio sapere. No, si monta la testa da solo. Io non voglio sapere cosa monta quello dell'IKEA. Vabbè, ormai c'è il delirio, dai, da post serata. Vabbè, facciamo un po' il... la facciamo un po' il sunto della, della giornata. No, non lo so, siamo al cellulare, ci facciamo i cazzi nostri. No, sto cercando l'ultima notizia della giornata, perché solitamente, devi sapere, quando facciamo verso la fine c'è l'ultima notizia che è sempre una grande, una grande cosa seria. E allora sono andato sul mio spacciatore di informazioni serie, Lercio.it. Sì, infatti. E cercherò poi la notizia da dare dalla... C'erano delle belle notizie. Perché ci sono notizie lì. Ci sono notizie interessantissime, interessantissime. C'era l'altra volta, si parlava ad esempio del Black Friday. Sì. Ancora? Wow. L'ultima volta che, cioè, l'unica volta che sono venuto qua si è parlato del Black Friday. Anzi, ah, è vero, è vero. Cioè, c'hai con me allora. Che stavamo cercando il ferro da stiro. Ma poi vi apriamo un attimino. Vai, vai. Ma a Natale vi è arrivato qualcosa di quello che... Tipo te, Cristina, volevi il vaporetto, che cavolo... No. Niente. No. È arrivato qualcosa che voleva, ma non quello che... Ciabatte. Realtà... Però già che portano il marchio Juventus, mi piacciono. Quindi... Per esempio, no, adesso stavamo parlando di notizie, no? Tu sai perché alla fine i giovani... comprano la droga nelle discoteche. Si dice, è una notizia vera questa, perché hanno intervistato un po' di giovani e dicono che comunque costa meno dei cocktail. Cioè, pensa a te che roba. Sì, ma esistono ancora le discoteche. Quello vabbè. Quello... Quello, talmente sono drogati che non, si, non so neanche dove sono. No, vabbè, vabbè. Beh, purtroppo non so, bisogna che droghe usano, perché adesso... Poi un'altra cosa invece, un'altra notizia, un'altra notizia importantissima. Praticamente c'era stato un rom che aveva tutti i denti dorati e quando ha avuto il mal di denti, niente, l'hanno portato dall'orafo, perché cioè, giustamente che non lo porti dal dentista, stacca lì i pezzi d'oro. Questo era, diciamo, il genere di notizie proprio interessantissime. Comunque fornite tutti da noi abbiamo all'interno del nostro corpo una piccolissima quantità di oro. Davvero? Certo. Secondo me abbiamo talmente tanti di quei metalli che... Sì, compreso che l'oro, quindi... Sì, vabbè, non se è tutto volete oro, potete che andare al compro oro a vendermi. Chissà quanto valiamo. Bene, un bene. Centesimo. Allora, concludiamo adesso un po' la parte musicale seria del programma, col poco che resta di l'ultima poco che resta di su. Questo è il primo brano della classifica ed è un brano di Autograph, che aveva già fatto altri brani, non so se l'hai mai sentito. Come sì, ok. E il brano ha un titolo molto evocativo, però non ci azzecca niente poi col pezzo originale. Smell Like Teen Spirit. No! Teen Spirit. Mamma. Smell Like Teen Spirit. Sei un grandissimo. Dai. Aiuto, povero cioè, caro. No, veramente. Un minuto di silenzio, aspettate un attimo. E poi fai partire il Io pezzo. Da quella parte lì, che una... La ragazza lì che sarà la blog con la maglietta di Guns che mi parla di reggaeton non deve parlare, almeno sulla musicale. No, passa. Vabbè, ma non è per quello. Io andrei dalla parte della regia e farei una strage. Sì, esatto. Mi segue il programma, settimana prossima lo conduciamo io e te. È vero, vero, ma che meglio. Stavo cercando una sigla triste, ma molto triste, ma non ho trovato nulla. No, veramente, sei stato scandaloso stasera, cioè soprattutto con i titoli. Su questo pezzo. Sì, no, hai ragione. Su questo pezzo, tra l'altro... Non me lo puoi dire in quel modo. Devo dire la verità, saranno settimane che lo leggo sto titolo. Ma perché... bello se leggeva anche MP3 come nel titolo. Punto MP3. Sì. No, ripeto, sono settimane che lo leggo sto titolo perché ho preparato perché la classifica. Perché voleva esercitarsi a pronunciarlo e ha sbagliato. Perché poi ha detto, no, sulla... perché non deve essere... Come non la deve signorina essere... al Mongari. Ed è finita così. È la stessa emozione che ho avuto come ho avuto con io chi prima. Chi è che c'è stata la diatriba della signorina Longari che non la sapeva? Con Mike, buongiorno. Con Fabio. No, non sapeva della storia della signorina è Longari. È una leggenda? No, è vero. No. È verità. Cercalo su internet. C'è proprio il video. Thank you. E niente, qua degrado comunque, assoluto. Comunque siamo come un orologio svizzero, sulle 10 abbiamo mandato la sigla per finire, quindi ci siamo. Vero, vero. Beh, più o meno. La precisione fa parte del tuo lavoro. Sì, infatti. Va bene, va bene. Concludiamo un po' la serata. Allora. Beh, ascolta, vogliamo parlarne? Sempre in orario, Sempre infatti, in orario. Tu non hai capito quello che diceva lui. Ma... No, prima stiamo concludendo l'ultimo discorso un po' serio, no? Che se l'ha tenuta una fiera dell'elettronica, giusto? La più famosa fiera dell'est. Sì, sì, quella di Booster Sizio. Quella di Booster Sizio. Malpensa fiera, no? No, no. Sì, sì. La fiera dell'est. No, in realtà è una fiera dove che sei? Los Angeles. Ma esiste veramente la fiera dell'est? Non lo so. Ce lo domandiamo per la prossima. Ce lo domandiamo per la prossima settimana. No, diciamo quindi questa fiera della... Dove vengono presentate le nuove... Beh, ma è famosa. Adesso non so il nome, sinceramente, non mi ricordo mai. Però sono presentate tutte le novità che in futuro saranno le cose che avremo in casa. Penso alla lavatrice. E hanno tirato fuori questo TV tutto snodabile, riavvolgibile, che è della Lenovo. Lenovo, io che lavoro al Mediamarkt, sì, sta andando tantissimo su un po' tutti i prodotti. Ma loro sono avanti su certe cose. Ma secondo però... te sono sì, tipo sì. Di... Questi sono tipo fiorentini, quindi i Lenovo. non lo so. Però vabbè, diciamo che la tecnologia... Cos'è che c'ha? Cos'è c'ha la tua? Non lo so. Adesso guarda, infatti iniziamo i saluti. Salutiamo la Cristina che così la facciamo fuori. Vedi? Ciao Cri. Eliminata. Una eliminata. Spengo. No, vabbè, scherzo. Allora. Hai capito, eh? Sì, sì. C'è il pulsante. Vabbè. C'è il pulsante eject. No, sì, dalla macchina, però, eh. Ma la macchina è la mia, quindi. Sì, però. Guiderò io adesso al ritorno. Hai le chiavi? No. E allora? Mi mancano le chiavi. Il passaggio ce l'hai, eh? Oh, meno male, vedi. C'è sempre la boa di salvataggio. Però non ha le chiavi di casa. Porca miseria. Toccherà dormire fuori stanotte. No, il divano ce l'ho anche. No, se no dormo qua in radio, amen. Rimango qua a dormire in radio. Va bene. Quindi, niente, salutiamo Cri. Te saluti. Ciao. Salutiamo Erika. Ciao. Torna quando... Sembra il club degli alcolisti anonimi, Quando ciao, mi pare. Quando ti pare, ciao, quando ti sono pare. Sono Cri. Ci vediamo settimana prossima. Se vuoi ti dico un po' di domande cattive che ti posso fare. No, dai, scherzo. Va bene, dai. Non c'è problema. Tanto penso che fino a giugno si andrà avanti, quindi di tempo ce n'abbiamo. Salutiamo Tony che tornerà settimana prossima. Sì, sì, no. Quindi abbiamo appuntamento fisso per un ci po'. Ci sarai anche tu settimana prossima a questo club? Dici? Se qualcuno ci sta guardando. Io ah, sì, sì, sì, sì. No, esatto, che dice se non lo voglio salutare. Salutiamo Domenico che mi saluta da solo. Mi saluta ciao, da solo. Ciao, Domenico. Ciao, Domingo. Salutiamo Fabio. Salutiamo il buon Fabio che è a casa. Sì, perché malato. Noi facciamo sempre lo sketch Fabio e Domingo. Se minchiate qua. Vabbè. Striscia la cazzata. Bravissimo. Che poi sono anche due personaggi abbastanza negativi ultimamente, devo dire la verità. Fassi. E niente, dopo questa marea di cose molto serie, musica però decente, dai. Quello dai. Che conta è la musica, sì, no? Dai. Tutto il resto. Ci prendiamo anche un po' in giro. Sì. È lo stress del fine della settimana che. Parla. Non ce la fai. Infatti, neanche... te domani lavori. Domani sera lavoro di nuovo. Beh, comunque, non sono. Anche Erika lavora sì, domani. Esatto. Ma mi attendono altre 8 ore di duro lavoro. In piedi. Quella in quale di Media World? Reparto computer. No, Gallarat. Gallarat. Gallarat, non è Bustoli. Noi Gallarat. Va bene. Dai, ci sentiamo settimana prossima. Sempre con Wolf Trips. Ciao. Radio Lupo Solitario dal 1979 ti regala emozioni rock.